In questa puntata della rubrica Beppi Nostro, Santo di Tutti, dedicata al centenario di Pio X, sospendiamo temporaneamente il percorso all'interno del progetto Aurora, che coinvolge molte scuole del territorio. Li ritroveremo studenti e professori la settimana prossima, per dare spazio ad una serie di iniziative per il centenario di San Pio X, promosso dal Centro Culturale Laguna di Venezia, appoggiato anche dal Patriarcato e dal Consiglio Regionale Veneto. Nei giorni scorsi c'è stata la presentazione ufficiale di questo calendario nella sede istituzionale di Palazzo Ferrofini a Venezia, sede del Consiglio regionale. Era presente ovviamente l'attuale patriarca, successore di San Pio X, Monsignor Francesco Moraglia. Venezia si appresta a ricordare San Pio X al 100° anniversario della sua morte, che coincide anche purtroppo con l'anniversario della Prima Guerra Mondiale. Quindi la preparazione è stata illustrata oggi qui nella sede che forse meglio rappresenta la vicenda umana veneta di San Pio X, cioè Giuseppe Melchiorre Santo d'Ariese. Io sono contento di essere venuto la prima volta in questa circostanza perché abbiamo messo al centro un Veneto che era profondamente radicato nella sua terra e perché ha rappresentato delle scelte che sono molto vicine a quelle di Papa Bergoglio per quello che riguarda la pastorale concreta, la pastorale di un Vangelo vissuto direi quasi in modo francescano, sine glossa, sine troppe commenti, e San Pio X certamente nella diversità che ha con Bergoglio, però su questo punto è certamente vicinissimo a Bergoglio. Una presenza significativa, qualcuno ricorderà, se ha visto fotografie o servizi televisivi, l'occasione in cui è stato regalato a Monsignor Moraglia un cappello di paglia che poi ha fatto molta notizia, si è fatto riferimento poi alle origini contadine di San Pio X. Il padrone di casa di quella giornata, il presidente del Consiglio regionale Veneto, Clodovaldo Ruffato. Si tratta di ricordare e onorare prima di tutto un cittadino celebre del Veneto che ha dato lustro al Veneto, che poi è anche assurto al ruolo di pontefice ed è diventato santo. È partito da queste terre, da Ariese Pio X, ha lavorato nel nostro territorio e logicamente ha lasciato un segno indelebile che noi adesso vogliamo ripercorrere e soprattutto ricordare le sue origini umili che l'hanno portato alla santità. Il calendario di eventi è già partito per quanto riguarda Venezia, appunto, e questo progetto San Pio X dal Veneto a Roma. È già partito sabato 23 con la Santa Messa presieduta dal Patriarca in Basilica di San Marco. Infatti, tra l'altro, c'è una ricorrenza perché il 24 novembre del 1894 Giuseppe Sarto, dalla diocesi di Mantova, che aveva guidato fino ad allora, fece l'ingresso a Venezia come patriarca e avrebbe guidato la diocesi patriarcato per 9 anni prima di essere eletto al soglio pontificio. Questo calendario di eventi è molto, molto ricco, molto interessante. Segnaliamo praticamente un evento ogni mese. Sabato 14 dicembre l'Ateneo Veneto a Venezia alle 16 ospiterà la conferenza L'itinerario di un santo Pio X. L'11 gennaio al Marcianum la seconda conferenza sulle riforme di San Pio X, il diritto canonico e la curia romana. L'8 febbraio, sempre nel pomeriggio, sempre di sabato, la scuola grande San Giovanni Evangelista, la terza conferenza sul contesto storico di San Pio X. Sabato 8 marzo, la Chiesa dei Santi Apostoli, l'incontro spirituale sulla devozione mariana e i rapporti con gli ordini religiosi e i santi. Il 22 marzo, San Pio X, gli artisti dell'epoca, alla scuola grande di San Rocco. Il 5 di aprile, all'abbazia di San Giorgio Maggiore, la riforma della musica sacra sul canto gregoriano e la riforma Soles Mense, la messa solenne poi nell'abbazia di San Giorgio Maggiore. Il 10 maggio si torna a Palazzo Ferrofini per gli aspetti economico-sociali del patriarcato e pontificato di San Pio X, per chiudere al Gran Teatro La Fenice con un concerto San Pio X nel mondo, sabato 21 giugno alle ore 17. Il 22 giugno la Santa Messa solenne per il Corpus Domini presieduta dal Patriarca. Ma il calendario aggiunge anche altre date, arrivando fino al 21 agosto del 2014, quando ci sarà l'incontro con le delegazioni dell'associazione Fondazioni San Pio X nel mondo, e l'appuntamento evidentemente poi per quella data è nel paese natale di Giuseppe Sarto, quindi Riese in provincia e diocesi di Treviso. Anche la diocesi di Treviso, come sappiamo, ha il suo calendario, visto che di sua nascita Pio X, centenariopiox.it. Ci sarà nel mese di dicembre il presepe artistico a cura dell'associazione Amici del Presepe di Riese Pio X, visitabile per un anno presso la cappella della scuola materna di Riese. E sabato 21 dicembre, già segnatevelo, il comune e la Proloco di Riese proporranno il presepe vivente con le borgate storiche del comune di Riese Pio X. Saranno tantissimi altri gli appuntamenti, praticamente poi si intensificheranno, perché la diocesi di Treviso proporrà anche i pellegrinaggi dei vicariati appunto verso Riese Pio X. Poi ci sarà il grande appuntamento a Roma, il pellegrinaggio diocesano dall'8 al 10 settembre, lì dove San Pio X è sepolto nella Basilica di San Pietro.